Grazie molte. E di Napoli, Francesca Schiavo, l'orchestra italiana. Devo dire una cosa, non ce la faccio a non tenermelo. È il figlio di De Crescenzo, l'autore di Luna Rossa. Lui è il figlio, sarà contento papà. Grazie.